Başını bozdu. Lost Mix. Voce su un bracare che stionendi di genti credenti, riporti in cicendi desintendi. Ori comprendi come testa vita basci in suo dalli verdi sin su mani come ti miniera principale. Mesi vinze sai da chi non sa respira su di nai compra sai nemmeno babbo chi sacrifica sta vita possa avere figlio se possa muleri che se nai non da mai volta mai non tu intendi in fin c'è chi ne mera tutto desta propria vita chi vuol narro che va ne eside pitron che sa schina china sa con cavo un momento scetti ci capi no brisi che ci bivi sui riuscetti nascita chi ta manca ta ca zutte buca manna malla che se una defazza fui da sacco debbe si da frida sa ma si poi comprendi chi ne c'è tu bi una cosa ma di cosa con un oca mezzo di cala depressi con i somini boga scaloni si ti boni si a zutto barco del rioni si a trughe pastori si ascolta questa voce gigando galla che se ne dica di performa da porta non comprendi si bo i da sin da barro testa gruppa porta mi di sempre a fora sa.